Ciao a tutti e benvenuti a The Deep Dive. Oggi ci tuffiamo in un argomento che, beh, diciamo che è sulla bocca di tutti ultimamente, l'intelligenza artificiale. E tu ci hai dato un bel po' di materiale per questa puntata, ricerche, articoli, appunti, insomma, roba interessante. E il nostro obiettivo oggi è, beh, aiutarti a districarti tra tutte queste informazioni e Esatto, scoprire le cose più importanti. giusto. Quindi l'IA ovunque in questo periodo, ma noi vogliamo andare oltre l'hype. Vogliamo capire le sue implicazioni più profonde, specialmente quando si parla di potere monopolistico. Hai centrato il punto. Si sente parlare tanto di IA in questi giorni, ma spesso ci si concentra solo sugli aspetti positivi e le grandi promesse. Oggi invece analizzeremo un aspetto un po' più oscuro, come l'IA si lega al potere delle grandi aziende e come questo potrebbe influenzare il futuro della tecnologia e di conseguenza le nostre vite. Sì, perché diciamocelo, l'IA non è solo algoritmi e codici, è anche una questione di chi controlla questa tecnologia, chi ne trae beneficio e chi rischia di rimanere indietro. Esattamente, e uno degli aspetti più critici è la dipendenza dell'IA da risorse concentrate, potenza di calcolo, dati ed esperienze. Questo scenario favorisce inevitabilmente le grandi aziende, come Google, Amazon, Microsoft, che già dominano il mercato del cloud computing e hanno accesso a enormi quantità di dati. Quindi queste aziende partono già avvantaggiate in un certo senso. Sì. Ma in che modo questo si traduce in un monopolio nel campo dell'IA? Vi immagina di voler costruire una macchina potentissima, ma solo poche aziende controllano l'energia elettrica necessaria per farla funzionare. È un po' la situazione che si sta creando nel campo dell'IA. I modelli di intelligenza artificiale su larga scala, come quello che sta alla base di ChatGPT, richiedono un'enorme potenza di calcolo, disponibile principalmente nei data center di queste grandi aziende. Sì, è vero. E non dimentichiamo i dati, il carburante dell'IA. Giusto, i dati! Chi ha più dati di Google, Facebook o Amazon? Nessuno. Immagino che addestrare questi modelli di IA abbia anche un costo non indifferente. Esattamente. O sbaglio? Prendiamo l'esempio di OpenAI, l'azienda che ha creato ChatGPT. Sembra una piccola realtà indipendente, ma in realtà è fortemente legata a Microsoft. Aspetta, ma Microsoft non fornisce solo l'infrastruttura cloud per OpenAI? Sì, ma non solo. Ah, Ah, no. Microsoft investe anche capitali in OpenAI, Capito, sbaglio. garantendosi un ruolo di primo piano nello sviluppo e nella direzione che prende l'azienda. Interessante. E parliamo di cifre importanti. Si stima che OpenAI abbia costi operativi giornalieri di circa 700.000 dollari, senza contare gli oltre 100 milioni di dollari spesi per addestrare GPT-4, Davvero. il loro modello di linguaggio più avanzato. Cifre da capogiro. Capisco quindi come questo livello di investimento rappresenti una barriera quasi insormontabile per chiunque voglia competere. Assolutamente. Ma questo legame con Microsoft come influenza concretamente i prodotti OpenAI? Potrebbe esserci il rischio che Microsoft indirizzi lo sviluppo di ChatGPT verso i propri È interessi. una domanda legittima e questo ci porta ad analizzare come le grandi aziende stiano espandendo il loro controllo sull'IA, anche attraverso partnership, investimenti e acquisizioni. Giusto, giusto. Non si tratta solo di OpenAI, l'AI Now Institute, un istituto di ricerca indipendente, ha descritto le startup di IA come balani sullo scafo delle big tech. In pratica, queste piccole aziende dipendono dai giganti per le risorse e spesso finiscono per essere acquisite. È un'immagine un po' inquietante, una balena gigante, le big tech con piccole aziende, le startup di IA che cercano di aggrapparsi per sopravvivere, ma con poche speranze di diventare veramente indipendenti. E Giusto. questo ci porta a una domanda. Esistono alternative a questo scenario? Si parla molto di IA open source come possibile soluzione, ma è davvero così? Può l'open source contrastare il potere monopolistico delle grandi aziende? Quindi l'idea è interessante. Sì. L'open source, come nel caso di Linux o Firefox, ha dimostrato di poter offrire alternative valide al dominio delle grandi aziende. Ma nel campo dell'IA la situazione è più complessa. Anche i modelli open source più popolari, come Llama di Meta, presentano dei limiti. Capisco. E spesso, a lungo andare, i progetti open source vengono assorbiti o controllati dalle big tech. Quindi non è una soluzione così semplice, mi viene in mente un paragone con il mondo dei software. Sì. A volte provo ad usare un'alternativa open source ad un programma commerciale molto popolare. Certo. Magari funziona bene, ma spesso manca la stessa facilità d'uso, la stessa integrazione con altri strumenti, lo stesso supporto. Convenienza, integrazione e supporto sono fattori cruciali, soprattutto in un campo in rapida evoluzione come l'IA. Eh già, è vero. E questo ci porta ad una domanda fondamentale. Quali sono i pericoli di un monopolio incontrollato sull'IA? Ecco, questa è una domanda che mi preoccupa molto. Sì. Se già oggi queste aziende hanno un enorme potere, cosa succederà quando l'IA amplificherà questo potere. Quali rischi concreti corriamo? Beh, i rischi sono semplici e toccano diversi aspetti della nostra vita. Oh. Uno dei più discussi è l'impatto sul mondo del lavoro. Okay. Molti temono che l'IA possa automatizzare un gran numero di professioni, certo, causando una diffusa disoccupazione. È una paura comprensibile. Quando si parla di IA, si pensa subito ai robot che sostituiscono gli operai in fabbrica. Giusto. È davvero così semplice. Yes. L'IA ci ruberà il lavoro o ci offrirà nuove opportunità? La questione è complessa yeah. e non si può ridurre a un semplice sì o no. Giusto. L'IA cambierà sicuramente il modo in cui lavoriamo, automatizzando alcune mansioni e creandone di nuove. Certo. La sfida sarà adattarsi a questa trasformazione, sì, acquisendo nuove competenze e ripensando il nostro ruolo nel mondo del lavoro. Quindi non si tratta solo di perdere il lavoro a causa dei robot, ma di imparare a collaborare con l'IA, a sfruttare le sue potenzialità per migliorare la nostra produttività e creare nuove opportunità. Esatto. Ma questo processo di adattamento non sarà facile per tutti. Chi rischia di rimanere indietro? Chi svolge lavori manuali o ripetitivi sarà sicuramente più esposto all'automazione. Capisco. E questo ci porta a confrontarci con importanti questioni di equità e giustizia sociale. Ah, okay. Come possiamo garantire che i benefici dell'IA siano distribuiti in modo equo senza lasciare indietro nessuno? Giusto. Come possiamo aiutare chi rischia di perdere il lavoro a causa dell'automazione? Domande cruciali a cui dobbiamo trovare risposte concrete. Assolutamente. E qui entra in gioco il ruolo della politica, delle istituzioni, della società civile. Sì. Dobbiamo creare un sistema che protegga i lavoratori, che offra opportunità di riqualificazione. Certo. Redactisca un reddito minimo per chi non riesce a inserirsi nel nuovo mercato del lavoro. Esatto. Ok, quindi un bel po' di sfide da affrontare. Ma non dimentichiamo un altro aspetto potenzialmente inquietante dell'IA. L'uso per scopi militari. Ecco, questo è un tema delicato e controverso. Sì. L'IA può essere utilizzata per sviluppare armi autonome, wow, capaci di prendere decisioni letali senza intervento umano. Un'ipotesi che preoccupa molti e non ha torto. A me, sinceramente, l'idea di armi che decidono da sole chi colpire fa venire i brividi. Capisco. Sembra la trama di un film di fantascienza distopico. Eh sì. Ma siamo davvero vicini a questo scenario. La tecnologia per sviluppare armi autonome esiste già. Davvero? Il problema è che queste armi pongono enormi dilemmi etici e morali. Certo. Come possiamo garantire che queste armi non finiscano nelle mani sbagliate? Giusto. Come possiamo controllare il loro comportamento? Come possiamo evitare che commettano errori fatali? Domande a cui onestamente non so dare una risposta. E che mi fanno pensare che forse l'unica soluzione sia impedire lo sviluppo di queste armi. Molti esperti la pensano come te. Per questo stanno chiedendo un bando internazionale sulle armi autonome, simile a quello che esiste per le armi chimiche o biologiche. Capisco. L'obiettivo è prevenire una nuova corsa agli armamenti basata sull'IA, certo, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l'umanità. Una sfida epocale, che richiede una risposta globale e coordinata. Sì. Ma torniamo al tema del monopolio dell'IA. Ok. Cosa possiamo fare concretamente per evitare che poche aziende controllino questa tecnologia così potente? Beh, ci sono diverse strade che possiamo percorrere. Una delle più importanti è sicuramente quella di rafforzare la legge sulla concorrenza. Dobbiamo creare un sistema che impedisca alle grandi aziende di soffocare la competizione e di monopolizzare il mercato dell'IA. Quindi usare le leggi antitrust per evitare che si crei un monopolio dell'IA. Esatto. Come è successo in passato con altri settori, come quello delle telecomunicazioni o dell'energia. Giusto. Concretamente cosa si può fare? Beh, possiamo ad esempio introdurre regole di non discriminazione che obblighino le piattaforme a trattare tutti gli utenti in modo equo, senza favoritismi. In passato, regole simili, chiamate common carrier, sono state utilizzate per garantire l'accesso equo a servizi essenziali come ferrovie e telefoni. Interessante. In pratica si tratterebbe di applicare lo stesso principio al mondo digitale. Esatto. Per evitare che le grandi aziende possano usare il loro potere per escludere i concorrenti o per favorire i propri prodotti e servizi. Giusto. Un'altra possibile soluzione è quella di smembrare i monopoli del cloud, separando l'infrastruttura cloud da aziende come Amazon e Microsoft. Capisco. Questo creerebbe un campo di gioco più equo per lo sviluppo dell'IA. Giusto, impedendo alle grandi aziende di usare il loro dominio nel cloud per ottenere un vantaggio sleale. Mi sembra un'idea sensata. Sì. Del resto, queste aziende già oggi usano la loro posizione dominante nel cloud per limitare l'accesso alle loro tecnologie di IA. Certo. Penso a Google, ad esempio. Che limita l'accesso al suo potente modello linguistico Pathways. Solo i sviluppatori che utilizzano la sua piattaforma cloud. Esatto. Un altro aspetto importante riguarda i dati. Sì. Potremmo creare un sistema in cui i dati raccolti dalle piattaforme dominanti siano accessibili e utilizzabili per il bene pubblico. Giusto. In modo da favorire l'innovazione al di fuori dal controllo delle big tech. Esatto. Una sorta di bene comune digitale, insomma. Sì. Un patrimonio di dati a disposizione di tutti, per la ricerca, per lo sviluppo di nuove tecnologie, per il progresso della società. Giusto. Ma come si può concretizzare questa idea? Esistono diverse tecnologie che potrebbero aiutarci. Mm-hmm. Una di queste è il Federated Learning, che consente di addestrare i modelli di IA su dati decentralizzati, preservando la privacy degli utenti. Quindi si potrebbero addestrare modelli di IA su dati provenienti da diverse fonti, senza dover centralizzare tutti i dati in un unico luogo, controllato da una singola azienda. Interessante. E per quanto riguarda i creatori, come possiamo proteggere il loro lavoro dall'uso non autorizzato per addestrare i sistemi di IA? È fondamentale garantire che gli autori siano ricompensati equamente per la loro proprietà intellettuale. Okay. Dobbiamo rafforzare l'applicazione del diritto d'autore per impedire che le opere creative vengano utilizzate senza autorizzazione per addestrare i sistemi di IA. D'accordo. Quindi abbiamo diverse soluzioni a disposizione. Leggi antitrust, regole di non discriminazione, separazione del cloud, accesso ai dati per il bene pubblico, protezione del diritto d'autore. Giusto. Ma la domanda è: chi avrà la volontà politica di mettere in pratica queste soluzioni? Questa è la vera sfida. Servirà una mobilitazione da parte dei cittadini, dei politici, degli imprenditori. Sì, dobbiamo far capire che l'IA non è un gioco. Certo, ma una questione che riguarda il futuro della nostra società. Già, il futuro è nelle nostre mani. E la consapevolezza è il primo passo per poter agire. Assolutamente. Dobbiamo capire cosa sta succedendo, quali sono i rischi e quali sono le possibili soluzioni. Giusto. E poi dobbiamo far sentire la nostra voce. Certo. Pretendere che la politica si occupi di questa questione, che le leggi vengano applicate, che i nostri diritti vengano tutelati. Esattamente. L'IA è una tecnologia potentissima che può portare grandi benefici all'umanità. Certo. Ma solo se la usiamo con saggezza, con responsabilità, con la consapevolezza che non è neutrale, che riflette i valori di chi la crea e di chi la controlla. E con la consapevolezza che il futuro dell'IA non è predeterminato. No. Siamo noi a decidere come vogliamo che l'IA plasmi il nostro mondo. Esatto. Bene, io direi che per questa prima parte del nostro Deep Dive ci fermiamo qui. Oh. Ci vediamo nella prossima puntata per continuare ad esplorare questo mondo complesso e affascinante. Perfetto. A presto. Ciao. Beh, i rischi sono molteplici e toccano diversi aspetti della nostra vita. Cioè, immagino. Uno dei più discussi è l'impatto sul mondo del lavoro. Certo, il lavoro. Molti temono che l'IA possa automatizzare un gran numero di professioni, causando una diffusa disoccupazione. È una paura comprensibile, eh? Sì, sì. Quando si parla di IA, si pensa subito ai robot che sostituiscono gli operai in fabbrica. Giusto. Ma è davvero così semplice? L'IA ci ruberà il lavoro o ci offrirà nuove opportunità? La questione è complessa. Beh. Non si può ridurre a un semplice sì o no. Giusto. L'IA cambierà sicuramente il modo in cui lavoriamo, questo certo. Sì. Automatizzando alcune mansioni e creandone di nuove. Capisco. La sfida sarà adattarsi a questa trasformazione. Giusto. Acquisendo nuove competenze e ripensando il nostro ruolo nel mondo del lavoro. Quindi non si tratta solo di perdere il lavoro a causa di roba, imparare a collaborare con l'IA. Esatto. A sfruttare le sue potenzialità per migliorare la nostra produttività e creare nuove opportunità. Sì, diciamo che l'IA diventerà uno strumento che dovremo imparare ad usare. Certo, ma questo processo di adattamento non sarà facile per tutti. Eh no, purtroppo. Chi rischia di rimanere indietro? Beh, diciamo che chi svolge lavori manuali o ripetitivi sarà sicuramente più esposto all'automazione. Ah, ok, capisco. E questo ci porta a confrontarci con importanti questioni di equità e giustizia sociale. Giusto, Ero. Come possiamo garantire che i benefici dell'IA siano distribuiti in modo equo, senza lasciare indietro nessuno? Come possiamo aiutare chi rischia di perdere il lavoro a causa dell'automazione? Domande cruciali a cui dobbiamo trovare risposte concrete. Assolutamente. E qui entra in gioco il ruolo della politica, delle istituzioni, della società civile. Sì, è un problema che riguarda tutti. Dobbiamo creare un sistema che protegga i lavoratori, che offra opportunità di riqualificazione. Certo. Che garantisca un reddito minimo per chi non riesce a inserirsi nel nuovo mercato del lavoro. Esatto, servono delle misure di sostegno. Quindi un bel po' di sfide da affrontare. Sì, non sarà facile.

Già, il futuro è nelle nostre mani e la consapevolezza è il primo passo per poter agire. Assolutamente. Dobbiamo capire cosa sta succedendo, quali sono i rischi, quali sono le possibili soluzioni. Certo. E poi dobbiamo far sentire la nostra voce. Pretendere che la politica si occupi di questa questione, che le leggi vengano applicate, che i nostri diritti vengano tutelati. Esattamente, l'IA è una tecnologia potentissima che può portare grandi benefici all'umanità. Sì, è vero. Ma solo se la usiamo con saggezza, con responsabilità. Certo. Con la consapevolezza che non è neutrale, che riflette i valori di chi la crea e di chi la controlla. Giusto, un punto importante. Yes. E con la consapevolezza che il futuro dell'IA non è predeterminato. Assolutamente no. Siamo noi a decidere come vogliamo che l'IA plasmi il nostro mondo. Esatto, il futuro è nelle nostre mani. Bene, direi che con questa riflessione concludiamo il nostro deep dive nell'affascinante e complesso mondo dell'intelligenza artificiale. Sì, un tema davvero ricco di spunti. Speriamo che questo viaggio vi abbia dato una prospettiva più chiara su come l'IA si intreccia con il potere e quali sono le sfide che ci attendono. Un grazie a tutti per averci seguito. E ricordate, l'IA non è un qualcosa di lontano e astratto, ma una realtà che ci riguarda tutti da vicino. Giusto. Informiamoci, discutiamone, agiamo. Sì, la partecipazione è fondamentale. Solo così potremo garantire che l'IA sia una forza positiva per l'umanità. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Ciao.